al fatto che il governo attualmente non riesce a creare quelle condizioni tali da garantire un supporto tecnologico alla gente che cerca di arrivare a fine mese e non sa più che santi pregare affinché riesca a superare le difficoltà che la crisi economica mondiale ha generato in tutti i settori della società, rendendo la qualità della vita sempre meno soddisfacente per sui bisogni che comunemente necessitano per poter partecipare con entusiasmo alle attività che continuamente impegnano ogni cittadino nel suo percorso personale, che caratterizza lo stato di individualità che consente di maturare una situazione di equilibrio, garanzia delle libertà di espressione che permettano una certa autonomia su diversi aspetti, a partire da quello economico verso gli altri aspetti però.